maniera mia. Parlo alle masse attraverso le casse più maffe, a maniera mia. Parlo alle masse attraverso le casse più maffe, pure senza la spia. Io non le canto le canzoni del cazzo, non faccio le cover, ammazzerei i commessi di Footlocker. Che belle gambe, se dirmi ancora aprono, oh, gli ormoni che evaporano. Chiudi in modo pessimo troppe conversazioni, ma quanti chiarimenti evitano depressioni. Con chi ne parli? Io considero i presenti piatti quali tengono caldi. Tiri su massi e ti schiacci, ci vai sotto perché non ti piaci. I pagliacci si truccano e fan ridere, a me mettono tristezza. Lavo, stiro poco e vesto un po' in maniera grezza. Non ho mai detto a nessuno peace and love veramente. Io lo vivo l'hip hop in maniera un po' controcoerente. Che belle scarpe hai, sul palco ma più forte di quel cazzo di freestyle. Te l'hanno detto mai, sei cattivo perché ridi sull'ultimo. Rido in gruppo e da solo, sono in lutto e rinego tutto. Mi hai dato una spinta per confrontarmi con l'altro lato malato. Sono limitato dal passato e come Azena devo desvelinarmi. Io vedevo gli altri sempre più grandi, sentivo gli altri sempre più forti. Gli sforzi, adesso i miei rinforzi. Le parole affronto e finisci che ti ci strozzi. Finisce che ti ci strozzi. È meglio affrontare le pare piuttosto che annaspare male. Cambiare ciò che non ci piace in boccate d'aere. Questo è tutto ciò che mi ha insegnato l'hip hop. A tramontare merda in stimolo positivo. Produco e scrivo tipo De Niro con Al Pacino. Delle colonne sonore che poi orchestro dal vivo. Con casse da schifo e talvolta anche senza micro. Una volta anche in Germania con l'amico Bino. Internazionale il suono delle mie brigate armate di materiale reale di tutte le razze. Hi man, chi sei, chi l'è, chi che chi. Siamo Figi de Bagascia, siamo 3MC. Dall'1993 fino anche al 3003. Lo faccio per me, per te, per chi vuole sentire. Buone vibre che rendono le persone unite, mettendoli assieme affrontano meglio le sfide. Ehi yo, ehi yo Bino, insieme a Lure. E io opino, lo sai, mi passa allo stesso modo. Perché sono nel gioco da quando i raga mi han detto che posso. Dal 9-6 che faccio le stesse cose, che ascolto le stesse strofe, continuo a rinnovare il mio fuoco. E troppe volte mi chiedo che cosa ho fatto, perché torno alle 4 di notte strafatto d'alcol. Sono le cose che vivo durante il giorno e so, non è in un fondo che ritroverò il mio spirito. Solo nell'ombra di una notte in cui vanifico ogni mio sforzo di trovare un mio equilibrio. Mi sento perso ogni volta che sento un tizio avere successo mentre io sono in delirio. Vedo la mia vita quasi sempre un bivio. Da un lato il cuore, dall'altro il suicidio. Ed è così che le passioni a volte uccidono. Ci credi così tanto che dopo ti senti piccolo. Ma questa musica ed è l'unico mio stimolo per dare il massimo e poter sentirmi libero. Hip hop, cosa immagini d'impatto? Un tipo vestito largo che fa yo-yo sul palco. Capisci che ci strippo per questo, per ogni testo che capirà soltanto l'1%. Sono raramente lucido, un po' stupido, e sudo come un mulo pure per trovarmi il pubblico. No problema, non vi supplico, non vi presto l'interesse. Se volete vi becco alle feste. Eppure sono il primo a sorridere al primo. Quando arriva si rispetta il clima della provincia. I Carugi del borgo, il quartiere popolare, i pescatori giù al porto. Ti sei accorto, contramestiere che mi dai soldi a fine mese o qualcosa che mi mantiene in piedi, al morale alle stelle. Non si tratta di forze, è Royal SS. E io Bino, zero plastica nel posto, 2008, sì. Yeah.